e lui diceva Cipollino, e questo di Fondelli diceva Argili faceva i disegni e lui da questi disegni traeva le filastrocche, sì, sì. Capito? Cioè erano la cosa bellissima di Rodari. Di Rodari era che lui non aveva nessuna intenzione di primeggiare, di essere il primo, di essere il superiore degli altri. Noi eravamo tutti insieme, lavoravate. Sì, lui per esempio non voleva che quella era la sua stanza, quella era l'altra stanza mia, quella era l'antica. Sì. Che io stavo nell'anticamera. No, lui voleva che noi stavamo lì insieme a lui, tutti alla pari al lavoro. Tutti alla pari al lavoro. E questa è stata una cosa per tutti i compagni, credo che sia stato un insegnamento non indifferente, che poi ce lo siamo portati appresso per tutta la vita, capito? Come esperienza di vita è stata importante. Un'esperienza di vita. La cosa importante che diceva Rodari, che uno deve essere se stesso. Devi dire quello che pensi, non ci deve essere una censura a quello che dici, perché se tu censuri un bambino, questo non ti dice più niente. Se tu al bambino gli dici, ah questo è sbagliato, a quello basta, è sbagliato, non ti dice più niente. La cosa che diceva Rodari, bisogna incoraggiare, ma bisogna imparare dai bambini, quindi non bisogna criticarli. Lui quando veniva a parlare, che io ho partecipato a tante riunioni nelle scuole, che lui faceva le riunioni con i maestri, no? E io mi ricordo sempre che lui quello che diceva ai maestri era voi non dovete bloccare la memoria dei bambini, la fantasia dei bambini. La fantasia dei bambini va rispettata. Voi non potete a un certo punto a un bambino dire non si dice così, si dice così. Se il bambino parla in dialetto, lasciatelo parlare in dialetto, perché in dialetto il bambino ti espone il suo pensiero. Se tu gli pretendi a questo bambino che parli l'italiano, questo pensiero lui non te lo esprime più, perché non è capace di esprimerlo. Sì. E allora lui, quando facevamo, lui faceva le riunioni con i maestri che mi portava con lui, lui era questo che diceva ai maestri. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. E questa è la prima parte dell'intervista di Morena Moretti a Luciana Romoli. Ricordiamo non solo staffetta partigiana durante l'occupazione di Roma, ma nel nostro caso in particolare il segretario di redazione del Pioniere e negli anni 50 ben conosciuto Rodari. Ha conosciuto bene anche la Dina Rinaldi, altro caposaldo, condirettrice di questo giornalino per ragazzi a fumetti, e questo racconto sulla Dina Rinaldi verrà ascoltato nella prossima puntata. Invece nella seconda parte di questa trasmissione andiamo a selezionare un altro giornaletto, forse il più letto di tutti, il Primattore, Topolino di Walt Disney. Topolino evidentemente non solo un giornalino, ma diventa un'icona, un simbolo del Novecento, e più volte viene ripreso nel bene e nel male in diverse situazioni. Cominciamo per esempio dal Topolin Topolin che cantano i soldati di Kubrick alla fine del suo bellissimo film Full Metal Jacket. Viva Topolì, solo tu, Topolì, puoi capire, Topolì, mille sogni di un bambino, ah, ah, ah. I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo, tutto d'un pezzo, prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo e non ho più paura. Viva e viva Brassi, sì, Topolì, Topoli, viva Topoli! Come noi bambini tu sei tanto piccoli. Topoli, Topoli, viva Topoli! Si ricordò di quel topolino che aveva liberato in un bosco nel momento in cui aveva deciso di lasciare Kansas City. Immediatamente prese un blocco da disegno e fece uno schizzo che raffigurava un topo dalla forma umana. Quando fu finito, lo mostrò a Lilly chiedendole cosa ne pensava del nome di Mortimer. A Lilly non piacque molto il nome e suggerì di chiamarlo Mickey. In quell'istante tutto quello che era successo rimase indietro. Il suo entusiasmo tornò più forte di prima e quando il treno arrivò a Los Angeles disse al fratello, che lo attendeva con Edna e Abba, ansiosi di conoscere la novità a cui aveva accennato nel telegramma: «Non abbiamo più il coniglio Oswald, ma ho portato Mickey Mouse». Nasce Topolino, 1928. E in questo modo nacque qualcuno che è diventato più famoso di qualsiasi imperatore, più amato di qualunque re e più popolare di qualsiasi personaggio storico. Secondo l'Index Translationum pubblicato dall'ONU, le avventure di Topolino hanno già superato, per il numero di lingue nelle quali sono state tradotte, persino la Bibbia stessa. Topolino e gli altri personaggi inventati da Walt Disney sono già stati tradotti più di Lenin o di Agatha Christie, solo per citarne alcuni. Inoltre, varie pubblicazioni di qualche anno fa hanno rivelato che i tre nomi di personalità più citati dalla stampa mondiale sono stati: al primo posto il calciatore Pelé, al secondo Topolino e al terzo il Papa. Walt tornò dal viaggio a New York con già pronto uno schema completo del piccolo roditore. Roy rimase così entusiasta che dimenticò presto lo shock del furto di Oswald e del mancato pagamento. Poco dopo, Roy già stava facendo quello in cui era il miglior specialista e che aveva fatto tutta la vita: cercare soldi per finanziare le idee del fratello. Da parte sua, Walt cominciò a lavorare senza sosta con Ab per decidere quale sarebbe stata la personalità di Topolino. Roy riteneva che il roditore dovesse incarnare il carattere di Walt. Ab suggerì che il personaggio fosse ingenuo, puro e onesto, ma galante, sbarazzino, sveglio e pieno di idee. Qualche anno dopo, Walt confessò che era stato il suo idolo Charlie Chaplin a ispirargli la personalità del famoso Topolino. Walt cercò di sfruttare la mimica di Charlot, che attraverso le sue espressioni poteva farsi capire in qualsiasi lingua e in qualsiasi luogo, dato che a quell'epoca il cinema era muto. La dura realtà però era che dovevano ricominciare tutto dall'inizio. Senza i soldi per assumere nuovi disegnatori, Walt e Ab furono costretti a eseguire da soli buona parte del lavoro. Per produrre il primo film con Topolino come protagonista, Ab preparava 600 disegni al giorno, mentre Lillian e Edna coloravano in bianco e nero, perché non c'era il colore, le pellicole di celluloide che sarebbero state fotografate da Walt dopo l'orario di ufficio. Quando Crazy Plane, si trattava di un'allusione a Lindelberg che aveva attraversato per primo l'Oceano Atlantico in aereo nel 1927, fu lanciato in un cinema di Los Angeles il 15 maggio 1928, non riscosse grande successo di critica. Topolino non era ancora conosciuto dal pubblico. Il film successivo, Galloping Gaucho, non riuscì ad essere venduto a nessun distributore di New York. Ma Walt tornò dal suo viaggio con una novità entusiasmante. La Warner Bros. Aveva lanciato il primo film sonoro al mondo, il cantante di jazz, con Al Jolson. Walt lasciò Roy completamente sbalordito dal suo entusiasmo. Ripeteva senza mai smettere: «Nessuno conoscerà Topolino senza suono». Roy era ancora una volta disperato, dato che i finanziamenti ottenuti per la produzione dei primi due film erano già finiti e si trovavano ancora una volta indebitati, ma l'insistenza di Walt fu così grande che Roy finì, come sempre, per cedere. Non senza aver prima chiesto al fratello: «Ma come farai a mettere insieme suono e disegno?» Walt gli rispose che non lo sapeva, ma che avrebbe trovato il modo. Roy replicò che se non ci fosse riuscito, i due avrebbero sperimentato per l'ennesima volta il fallimento. Topolino ha letto sia dai bambini che dagli adulti, appunto perché si presta a due piani di lettura: il bambino che si accontenta della storia, che in genere è fatta bene e ha una soluzione, sempre tende all'ottimismo, naturalmente sempre si risolve a fin di bene, e gli adulti che possono cogliere in Topolino quei riferimenti e quelle allusioni e anche quell'ironia che il bambino non può cogliere. Ecco perché c'è stata sempre questa, il letto dai 9 si può dire 90 anni veramente, Topolino è l'unico fumetto nella storia che è letto da tutti. Le parodie sono apparse tutte su Topolino, ma anche i grandi classici, l'Odissea per esempio, e sempre su Topolino, quindi insomma ha fatto la letteratura, ha fatto la storia, ha fatto la cronaca, ha fatto i mass media, li ha trasportati tutti, appunto credo che sia comunque questo anche che lo rende naturalmente sempre attuale e sempre moderno. Forever let us hold a banner high, high, high, high. Come along and sing the song and join the jamboree. MIT, KUI, MUIC. C'è questo Topolino che vuole imitare Lindbergh, che si fabbrica un aereo casalingo, ci tira su la compagna Minerva, detta poi Minnie, no? E insieme partono, vengono beccati da una tempesta, però a un certo punto Minnie riesce a salvarsi usando le proprie mutande come paracadute. Questo all'anima del topolino puritano, bigotto, uomo d'ordine, ci si salva quando è il caso utilizzando in maniera geniale anche un paio di mutande femminili. Topolino però non si butta giù con Minnie, resta su, continua a andare per i cieli dove lo porterà mai la tempesta. In una delle traduzioni di questa storia che è stata più volte tradotta dice forse verso la Cina, forse verso l'Irlanda, quindi all'estremo ovest o all'estremo est del mondo, bisogna intendersi per un americano dove l'ovest e dove l'est naturalmente, perché la terra è come notte rotonda. E questa avventura Topolino non l'ha smessa mai, non l'ha smessa mai e continua ancora oggi, siamo in attesa del numero 3000, no? Dell'edizione del Topolino, del libretto di Topolino, quindi continuerà ancora, io spero che continui più che può, ecco, più che può, che continui a rallegrarci come rallegrava Edra Pound, che pare poi quando vede alcuni cartoon di Disney su Bambi piangeva come una fontana, che rallegri anche dei grandi fisici come Paul Dirac, il quale di solito quando era stufo di fare conti e meccanica quantistica scappava o al cinema a vedere i cartoon oppure si faceva incetta di fumetti che nascondeva accuratamente i propri colleghi. Mi dicono che purtroppo tra i lettori di Topolino pare ci sia anche il signor Kim Jong-un, attuale dittatore della Corea del Nord, che minaccia, dice addirittura gli Stati Uniti. Speriamo che Topolino e Tabeta abbiano realizzato l'ombrello con cui gli Stati Uniti possono validamente difendersi, come in una vecchia storia molto bella in cui poi dopo ho scoperto che lo scienziato intelligente ma bambino con cui Topolino e Tabeta interagiscono in quella storia, è una storia un po' di fantascienza e un po' anche politica, no? È un professore piccolino che ricorda come tic nervosi il grande Robert Julius Oppenheimer, cioè il protagonista del progetto Manhattan. Si può anche capire che Walt Disney sia stato visto come in tutte le maniere. Negli anni 30 con quasi un socialista sindacalista, poco dopo però con una certa virata nell'amministrazione americana antisindacalista e anticomunista, simpatizzante di Mussolini, qualcuno dice addirittura di Hitler, anche se poi Topolino va in una celebre storia a bombardare il Reichstag. Quindi si può leggerci di tutto, qualcuno lo considera un ateista, perché non c'è sentimento religioso, nessun discorso sull'immortalità, tutto zitti su questo punto, qualcuno un satanista, perché talvolta le streghe in Topolino fanno una buona parte, come Nocciola, inizialmente era nemica di Paperino e non di Pippo, ma di Paperino, nella versione di Barks, poi invece nelle versioni italiane soprattutto di Pippo, e la magnifica Amelia, la strega Carmaglia, che ha i tratti della nostra Sofia Loren, la Sofia Loren che andò tutta vestita di nero negli Stati Uniti prima di sbocciare e trasformarsi come una delle grandissime dive del Novecento. Paperino 1934. Fin dall'inizio infastidiva gli spettatori e li conquistava allo stesso tempo un commentatore. La prima apparizione del papero ancora senza nome fu nella serie Silly Symphonies nel corto La gallinella saggia del 1934. Nel film la gallinella cerca qualcuno che l'aiuti a piantare il grano, ma il papero combina guai e non ha nessuna intenzione di collaborare, finché alla fine, nonostante le lamentele, le dà una mano. Subito dopo appare in un film in cui Topolino organizza uno spettacolo per artisti animatori. Tra le star presenta anche Paperino, che doveva recitare alcune poesie, ma la sua esibizione è un disastro. In questa occasione acquista il nome di Donald. Dato che i paperi vivono nell'acqua, Disney pensò di vestire Paperino con una maglia azzurra e un cappello da marinaio. Il suo carattere forte e impulsivo trasformò Paperino in una stella di prim'ordine, compagno terribile e cattivo consigliere per Topolino. Paperino uscì come rivista a fumetti nel 1938, raggiungendo una fama di portata mondiale fin da subito. Le sue peripezie, insieme alla fidanzata Paperina, Daisy nell'originale, e ai nipoti qui qua qua, divertivano generazioni di grandi e piccini. Come Topolino, Paperino riuscì a conquistare il mondo intero con nomi sempre diversi: Paolino Paperino in Italia, Paja Patak nell'ex, non so bene come si pronunci, nell'ex Jugoslavia, Aku Anka in Finlandia, André And in Danimarca, Batuk in Arabia Saudita, Kalle Anka in Svezia, Donald Bebek in Indonesia e addirittura Donaldus Anas in latino. Nel giugno del 2004, per l'anniversario dei suoi 70 anni, Paperino lasciò un segno sul Walk of Fame, il marciapiede delle star di Hollywood, un onore riservato esclusivamente agli astri del cinema statunitense. Per creare il papero, Walt si affidò a due collaboratori dello studio, Dick Landy e Fred Spencer. La famosa voce gracchiante di Paperino fu trovata quasi per caso quando Walt sentì in un programma radiofonico il doppiatore di Paperi Clarence Nash. Andò subito a cercarlo e il papero ebbe enorme successo dal suo primo quack. Paperonde Paperoni, lo zio di Paperino, nonostante porti il nome della Disney, fu creato invece dal brillante disegnatore Carl Barks nel 1947, così come Archimede Pitagorico nel 1952. Barks, nato nello stesso anno di Walt, 1901, entrò negli studi nel 1932 e si rivelò un creatore geniale di fumetti, portando i personaggi principali della famiglia di Paperi a livello di opere d'arte e trasformandoli in leggenda. Influenza su sceneggiatori e registi come George Lucas e Steven Spielberg, che si ispirarono proprio a un'avventura di Paperopoli per realizzare la famosa scena della pietra che rotola su Indiana Jones nel film I Predatori dell'Arca Perduta. Barks lasciò il cinema per dedicarsi esclusivamente ai fumetti nel 1943. Morì nel 2000 all'età di 99 anni. Paperonde Paperoni, il cui nome originale è Scrooge McDuck, secondo Barks fu ispirato all'avaro protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens, il vecchio Ebenezer Scrooge. Il vecchio papero, le cui fortune avevano avuto inizio con la monetina numero 1, diventata ben presto una sorta di amuleto e un simbolo di tutti i soldi che il milionario teneva nella sua cassaforte, fu oggetto di severe critiche negli anni 70 e 80, come quella degli autori ed educatori cileni Ariel Dorfman e Armand Matelart durante il breve governo socialista di Salvador Allende. Nel loro libro Dorfman e Matelart descrivono zio Paperone come uno dei sottili stratagemmi imperialisti messi in atto dai fumetti Disney per divulgare il capitalismo selvaggio.